Nella testa un buco nero, spendo soldi per sentirmi più leggero. Nuovo show spettacolare su un'isola di plastica in mezzo al mare. Faccio mille foto ma il vestito uguale, in 15 secondi ci si può annoiare. Non mi ricordo più che cosa devo fare, ci sto prendendo gusto col dimenticare. Senza problemi, senza pensieri, l'insalatina per restare leggeri. Per fare il figo dovrei chiedere un fido. Mi sa che tocca fare un altro pezzo estivo.